in less than a niche. Our thought feels right. It must be the lesson hidden deep inside. It must be the lesson. So go inside. Iniziamo con una canzone che per me è un classico, un po' come la band ovviamente. La bellissima voce di Peter Murphy insieme ai suoi Bauhaus, questa era Kick in the Eyes, la primissima alle 12.05, ben trovati su Rock FM in questa meravigliosa giornata di sole, insomma siamo in piena estate, basta. Bella la pioggia perché serve ogni tanto e fa bene, non lo mettiamo in dubbio, però dopo un po' ha anche rotto i cosiddetti, quindi noi vogliamo assolutamente il caldo, vogliamo il sole, vogliamo l'estate, vogliamo poter mettere le scarpe aperte, le famose infradito, basta, siamo stufi. Però noi siamo qui con la nostra ottima musica a tenervi compagnia e con ovviamente un po' di news, gli ultimi concorsi, i nostri contatti subito 335-100-7777, claudia@rockfamily.it. Allora abbiamo iniziato con una bellissima canzone, ripeto, nel mio caso un classico, perché come ben sapete io sono un po' cresciuta con la musica, quella bella cupa, quella bella triste che ogni tanto comunque mi fa ancora compagnia. E continuiamo invece con una canzone che segna il ritorno di una band che ai tempi insomma era sempre presente all'interno della nostra programmazione. Sono i Puddle of Mud, anzi Puddle of Fucking Mud, questa Psycho. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho, yeah. Maybe I'm the one, maybe I'm the one who is a schizophrenic psycho. She laid down on the fresh lawn. She can make everything magical, but she died one on big time, and it makes me want. No, we're gonna win again. Yeah, yeah, yeah. Hey, this is Steve Lukather, and I gotta tell you, man, there's something all wrong about losing rock radio, man, because what do we got? What do you want to listen to? You want to listen to dance music? You want to listen to Pro Tools? You want to listen to bullshit? Listen to rock and roll, because AC/DC, Led Zeppelin, Hendrix, it's all good. Please, for God's sake, turn it up loud and don't stop. Revenge con True Romance, però sono molto carini, nel senso che essendo una band relativamente nuova ci tiene a fare giustamente un sacco di promozione, a promuovere le canzoni, a conoscere i fan, e quindi in occasione del tour americano ad esempio hanno fatto una cosa molto interessante: se tu compravi il CD, ovviamente quello originale, poi ti connettevi al loro sito internet e grazie a un codice ricevevi un braccialetto, andavi insomma al concerto della band, e questo concerto poi ti dava la possibilità di conoscere la band, di insomma il classico meet and greet, però appunto fatto tramite questo braccialettino, e ripeto, tutta questa era la formula, e loro lo facevano dopo ogni concerto, e è un'iniziativa che è andata molto bene, visto che in diversi poi hanno voluto conoscere la band e fermarsi a fare quattro chiacchiere con loro. Questa è una cosa, ripeto, molto carina, molto insomma da seguire come esempio, se vogliamo. Ma parliamo invece della prossima settimana, che ahimè sarà l'ultima, ma A questo non ci vogliamo pensare, perché sennò scatta veramente il lacrimone. Ma a proposito di artisti, visto che finalmente insomma possiamo dare già qualche orario, qualche giorno, vi ricordo che in Linea 77 ad esempio arriveranno il 29 maggio alle ore 15. Il palinsesto sarà rivoluzionato, nel senso non sappiamo a che ora e chi, quando andrà in onda. No, l'ultima settimana si fa casino, sì, non si rispettano gli orari, non si rispetta il palinsesto. Ospiti, amici in onda, tutti insomma un po' per supportare la radio in quella che, ripeto, purtroppo sarà l'ultima settimana. Ora ritroviamo in Linea 77 ancora una volta da Horror Vacui con il mostro. Rispetto dentro uno specchio la mia faccia, mentre il freddo di questa stanza è come la stretta di un gigante che mi abbraccia. Un brivido mi afferra la gola per buttarmi giù, e metto vuoti nel silenzio sul quale scivo. Ma basta un attimo, un alimento con i miei occhi il mostro, morboso di paure, già prendo un stesso tiro. Ma non le vedi, parole che ti rotolano addosso, la vita ride di te, mentre ci si tuoi stessi piedi. E non sei. Riascoltati allora con il mostro, vi ricordo ancora una volta l'appuntamento con la band giovedì 29 maggio alle ore 15, si faranno questa trasferta Milano-Torino, non è la prima volta, e sono molto molto carini perché torneranno in studio per l'ultima occasione. con loro parleremo un po' male. No, scherzo, non parleremo male di nessuno, però faremo una bella chiacchierata. Ora vi lascio con una band inglese, si chiamano The Wombats Moving to New York. Yeah. Whitesnake da Good to the Bad, il loro ultimo album. Lavoro che sta andando molto bene, sta raggiungendo un grande successo nelle diverse classifiche europee. Ma voglio dire, Whitesnake, un nome, una garanzia. La bellissima voce poi, insomma, di David Coverdale. Un po' di saluti, un po' di bacioni. Quest'oggi c'è un'atmosfera particolarmente gioiosa in radio, perché siamo praticamente in compagnia di un cagnolino di neanche 2 mesi. Ed è una bellissimo, solo che il cagnolino mi sa che ha qualche voglia, infatti col mio piede, cioè con la mia scarpa primale, insomma, ci provo con la mia scarpa, è bellissimo. Saluto, la Sab dice, ciao regina dei computer, ma tu sai come si fa ad entrare nella chat di Rock Family? Sì, so benissimo ed è molto semplice, clicchi chat e via. No, eh? Gravelli, come si fa ad entrare nella chat? Non lo sai? Nemmeno tu, non lo sa. Lo sappiamo, ma Sab, insomma, guarda, in questo momento non lo so, non ho la più pallida idea, e continuerei con i saluti. Saluto anche Tommy Boy, dice, ma come fate a non insultare continuamente chi vi chiude? Ma perché noi siamo dei signori. E poi, come dice la mia mamma, la ruota prima o poi gira per tutti e tutto torna. Quindi, e questa che torna indietro a loro è grossa, visto quello che hanno fatto. Quindi aspettiamo con calma quel fantastico momento. Saluto anche il nostro edicolante di fiducia, che mi chiede anche della reunion dei Pink Floyd, ma ne stavo parlando anche con Marco qualche secondo fa. Ogni giorno arriva, no, ogni giorno no, però è un po' come l'album dei Guns, un giorno esce, l'altro giorno non esce, quindi anche sta reunion, prima sì, poi no, poi forse, poi non si sa, poi boh. Non lo sappiamo. Saluto anche Brutus, un bacione. Saluto anche Kina, dice, invito tutti gli amici di Rock Fama, come il 24 maggio per la Street Parade che inizia alle 14 fino alla mezzanotte. È possibile dirlo alla radio? Guarda, l'abbiamo appena fatto, il 24 maggio è sabato, però ti posso dire che quasi tutta la radio sarà in quel di Gello, un sacco, Pontedera, tutti li ho detti, insomma, uno dei tre è sicuramente giusto, anche perché si terrà. Io sì, ecco, io so che devo uscire a Ponsacco, Pontedera, poi c'è una rotonda e io passo praticamente metà serata a girare intorno a questa rotonda, vabbè, ma insomma. Viva i navigatori, li hanno inventati soprattutto per quelle come me. Adesso invece vi lascio con una bellissima canzone per una grandissima band che è al lavoro per il nuovo album, ne parliamo dopo. È la Dave Matthews Band e questa è The Space Between. You cannot quit me so quickly. There's no hope in you for me. No corner you could squeeze me. But I got all the time for you, love. The space between. Hold you up. faranno l'estate in tournée, ovviamente purtroppo solamente in America, e poi la Dave Matthews Band nel mese di settembre tornerà in studio dove registreranno il nuovo album, e per la prima volta c'è un'atmosfera un po' particolare all'interno della band. Ai tempi era solamente Dave Matthews che scriveva le canzoni, adesso invece c'è stato proprio un lavoro completo, tutta la squadra insomma si è sbattuta tra virgolette per quello che sono le nuove canzoni. Non vediamo l'ora ovviamente di ascoltare un nuovo album, ma non vediamo l'ora anche di rivederli in concerto. Io li ho visti semplicemente una volta all'interno di Sonori al festival, prima di Sepultura, quindi era un'atmosfera un po' particolare. Grandissima la Dave Matthews Band con The Space Between, piccola pausa tra poco i Dezzi.